in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Oggi vorrei iniziare dalla prima pagina del New York Times di ieri, l'edizione internazionale. Come abbiamo, se per caso qualcuno ci ha seguito, come abbiamo detto anche in Effetto Mondo ieri, l'edizione americana era naturalmente focalizzata con una grande infografica che occupava quasi tutto lo spazio della prima pagina sul confronto tra la terza settimana di marzo e la terza settimana di maggio, scusate, la terza settimana di giugno, per vedere quanto siano aumentati i contagi e i decessi negli Stati Uniti. L'edizione internazionale invece aveva una foto molto bella, ma allo stesso tempo anche un po' cupa, di due leopardi che guardano nell'obiettivo. È una foto scattata di notte perché tutto intorno a loro è scuro e il titolo è China Arrives, Poaching Rises. Arriva la Cina e aumenta il bracconaggio. Il tema è in parte legato alla pandemia, nel senso che in moltissime aree del mondo, in Sudafrica, come abbiamo visto in passato, in questo caso si parla dell'America Latina, ci sono persone, guardie dei parchi nazionali, poliziotti di qualche corpo speciale che cercano di limitare il fenomeno del bracconaggio, che è illegale in qualsiasi paese ormai. Il problema è che la pandemia ha impedito anche a queste persone di lavorare o magari si sono ammalati e quindi è aumentato il bracconaggio, ma è aumentato anche, cioè questa correlazione che viene messa in evidenza dal New York Times, soprattutto perché sono arrivati molti investimenti cinesi e con loro degli imprenditori cinesi. Questo è un fenomeno che si era già visto in Africa. Del resto il rapporto dei cinesi, sempre generalizzando, con gli animali sappiamo che è sicuramente criticabile. Il 23 di giugno, lo ricordiamo, ne hanno parlato tanti giornali e tanti organi di stampa e media in generale nel mondo, è iniziato il famigerato festival di Yulin, che è quello dove migliaia di persone vanno per mangiare carne di cane, e la particolarità è che i cani che poi vengono mangiati da frequentatori di questo festival sono uccisi pochi secondi prima di essere appunto destinati a queste persone. Non si riesce a farlo chiudere, anche se il governo cinese aveva preso un impegno a farlo, e l'edizione di quest'anno è regolarmente in corso. Non voglio dire che noi occidentali o in altre parti del mondo abbiamo un rapporto corretto con gli animali, perché secondo alcuni gli allevamenti intensivi, soprattutto di polli, sono naturalmente una forma di tortura per gli animali. Però insomma, questo fatto del bracconaggio che aumenta è sicuramente, appunto, rispecchia da una parte la pandemia e dall'altra anche questa abitudine di cinesi molto facoltosi, come del resto accade, sempre per completezza di informazione, anche agli americani facoltosi che fanno i safari di caccia. E appunto questi cinesi facoltosi amano poter cacciare per esempio i leopardi. Passiamo a un argomento che è più strettamente legato alla pandemia. Ne ha parlato Vox Europe questa settimana, è un bellissimo articolo di Maria Alvarez del Vaio e di altri due giornalisti spagnoli, ed è intitolato «Italia e Spagna hanno la metà degli infermieri rispetto al Nord Europa». Hanno analizzato moltissimi dati, sia di Eurostat sia dei singoli paesi, e appunto si è scoperto che forse c'è una correlazione tra il fatto che Italia e Spagna siano state così colpite in Europa e i numeri del personale infermieristico. Si legge infatti in questo articolo: il virus ha messo in luce una grave e comune carenza nei sistemi sanitari di questi due paesi, la mancanza di personale infermieristico rispetto al numero della popolazione. I lavoratori più esposti di questa crisi non solo non erano equipaggiati, spesso mal pagati e con contratti precari, ma non erano abbastanza numerosi. E tra l'altro questo articolo, che trovate su voxeurope.eu, è anche corredato da una vignetta molto, io non amo descrivere le vignette perché bisogna guardarle, però ve la segnalo, è di Dimitris Gorgopalis, che fa parte del collettivo di vignettisti Cartoon Movement, ed è appunto pensata per illustrare questo articolo e coinvolge il virus, anche se, e qui ve la descrivo perché non si può fare a meno, la trovo bellissima, la trovate online. La vignetta sul virus più comunque rispettosa, però che comunque fa sorridere, l'ha pubblicata il New Yorker, e c'è il virus, il coronavirus, così come abbiamo imparato a conoscerlo dalle immagini ai microscopio elettronico, con tutte le sue piccole escrescenze che sembrano appunto una corona, da qui il poetico nome che gli hanno dato i virologi, che suona su un palco. E sapete che spesso gli artisti, quando diventano famosi, dedicano alcune canzoni o dedicano un ricordo, un pensiero a chi li ha scoperti, e il virus sul palco con la sua chitarra dice: questa prossima canzone la dedico a chi non ha creduto in me fin dall'inizio. Perché moltissime, anche qui in Italia lo ricorderete sicuramente, è successo. All'inizio c'era chi sottovalutava questa epidemia, anche importanti virologi. Adesso naturalmente sappiamo che, come abbiamo detto all'inizio, nonostante negli Stati Uniti i casi continuino a crescere, addirittura secondo il CDC, ne hanno dato notizia ieri tutti, dalla CNN a Forbes, tutte le newsletter possibili e immaginabili hanno anticipato questa notizia, e che poi naturalmente con i tempi necessari è finita sui quotidiani di carta, che il CDC, il Center for Disease Control and Prevention, che è un'autorità indipendente sanitaria, stima che in realtà i contagiati negli Stati Uniti siano 10 volte superiori a quelli ai numeri ufficiali. Siccome siamo intorno ufficialmente ai 2,4 milioni, la cifra vera sarebbe 24 milioni. Pensate che enormità. Però, per alleggerire un po', perché poi ho qualche altra notizia che leggera non è per nulla, vi segnalo, e vorrei che ci fosse qui Roberta Pellegatta con il suo giardino segreto, vi segnalo da Internazionale questa fotografia stupenda. La notizia è apparsa su moltissimi giornali, ma qui la fotografia vale molto più di una descrizione, ed è successo che a Barcellona qualche giorno fa un quartetto d'archi ha suonato al più importante teatro della città, il Liceu, di fronte a 2.292 piante in vaso. L'evento, che ha segnato il ritorno all'attività del teatro dopo 3 mesi di chiusura per la pandemia, è stato ideato dall'artista Eugenio Ampudia. I musicisti hanno suonato una versione di 8 minuti della composizione Crisantemi di Giacomo Puccini. Alla fine del concerto le piante sono state regalate al personale sanitario della città. E comunque ci sarà qualcuno magari che sorriderà e che mi prenderà un po' per matta, però in realtà ci sono sempre più studi che dimostrano che le piante hanno comunque, magari non i 5 sensi come li abbiamo noi, ma sono sensibili al rumore, alla musica, anche alla voce delle persone che se ne curano. Ma insomma, questa notizia la trovate su Internazionale. Poi, dicevamo, purtroppo non si può, magari se ci fossero solo buone notizie, c'è un altro tema che, come diciamo spesso, è tra quelli che la pandemia ha oscurato, ed è la Libia. E Internazionale ha tradotto da Le Monde un articolo di Frédéric Bobin che si intitola «Turchia e Russia decidono le sorti della guerra libica». Gli interessi contrastanti di Ankara, capitale della Turchia, e Mosca rischiano di far salire la tensione nel Mediterraneo orientale, di coinvolgere altri paesi nel conflitto, come l'Egitto. E oltre a Le Monde di questa questione si sono occupati molto anche i giornali tedeschi, per una evidente, che sottolineiamo sempre, diciamo, preoccupazione per il numero di turchi di seconda o terza generazione, a volte anche di prima generazione, che lavorano e vivono in Germania, che quindi sono, naturalmente, guardano con particolare preoccupazione a quello che succede nel loro paese d'origine. Ma al di là di questo, è un tema di cui dovrebbe occuparsi tutta l'Europa, e che invece, complice la pandemia, abbiamo lasciato, come scrive Le Monde, ai due uomini forti di Turchia e Russia, Erdogan e Putin. Permettetemi, facciamo questa cosa oggi, scegliamo qualche notizia così che distende un po' l'animo. E dal New York Times è stato tradotto, sempre da Internazionale, questo articolo di Veronique Greenwood che si intitola «Tutti i colori del colibrì». Un nuovo studio dimostra che questi piccoli uccelli sono in grado, sapete che il colibrì è piccolissimo, c'è una foto e fa vedere che è grande quanto, anzi è più piccolo del fiore sul quale si sta posando. Questi piccoli uccelli sono in grado di distinguere colori ultravioletti che l'occhio umano non percepisce, una capacità utile anche per trovare il cibo. e non c'è niente da fare. La natura è sempre, sempre piena di sorprese. Non compiamo mai l'errore di pensare appunto di essere una specie che, poiché ha questa sicuramente la parola, per esempio, che nessuna specie conosciuta, specie conosciuta ha su questo pianeta, o magari pensiamo di avere il cervello, chissà che sentimenti, però appunto poi si scopre che la natura, le piante, gli animali hanno delle qualità incredibili e insospettate. Ultimissima segnalazione, ve la faccio dalla Süddeutsche Zeitung, che ha dedicato un profilo al governatore della Campania, Vincenzo De Luca. È naturalmente molto, diciamo, molto seguito anche qui da noi, perché alcuni lo considerano quasi un cabarettista per la scelta che fa delle sue parole, poi la sostanza è un'altra cosa, però sicuramente dà una forma molto colorata, è un'altra cosa nel senso che a volte è molto seria, ma dà una forma molto colorata, molto napoletana, se vogliamo, nel senso più allegro del termine, ai suoi proclami politici, e questo ha attirato l'attenzione anche di alcuni osservatori stranieri. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.